volta che andava da mio nonno rimaneva ad ascoltare la bocca aperta. Mio nonno diceva certe bestemmie che io rimanevo ad ascoltare. Ma lancia i cancelli dal paradiso! No, ma in piazza con tutti, insomma, con tutto il clero. Mio nonno abitava a prima porta, aveva costruito un palazzo, 3 piani di puro abusivismo. Per costruirla aveva pure mezzo sventrato una montagna che adesso le suore che insomma che ci stanno ci hanno fatto pure causa. Nel giardino della collina mezzo sventrata mio nonno aveva installato un enorme gallinaro che noi chiamavamo gallinaro, ma in realtà conteneva tacchini e una pecora. Io d'estate vestito con maglietta verde della Virtus prima porta, che diventava marrone, scarpe primigi versione estiva tagliate con le forbici sulla punta per permettere al piede di respirare, fazzoletto scatarrato di mio nonno in testa in funzione antisole, passavo allegramente il tempo a seguiziare mia cuginetta più piccola chiudendola all'interno del gallinaro e costringendola a mangiare il fieno con la pecora. Un giorno arriva mio nonno, prende una gallina e la porta in casa, noi lo seguiamo, la porta in cucina, la mette sul lavandino, mette la mano sul collo e sa che la torce. La gallina fa uno spasmo e gli pende il collo con la testa così. Mio nonno prende il coltello e gli fa uscire il sangue. Mio nonno ammazzava le galline. Una domenica sì, una domenica no. L'altra domenica faceva il sugo con le spuntature. Si svegliava presto, preparava l'impasto con le fettuccine, andava dal macellaio, sceglieva i pezzi di carne e tornava a casa. Preparava il sugo con le spuntature, prendeva il mattarello, stendeva le fettuccine e le tagliava. L'odore si diffondeva per tutta la casa, per tutto il palazzo, per tutta la Tiberina. Arrivava fino al Tevere, arrivava fino al cimitero. Un odore che risvegliava i morti. Un giorno arrivo e vedo una famiglia, mio madre, padre e una bambina piccola, erano scuri scuri. Non avevo mai visto gli scuri scuri dal vivo. Mio nonno li chiamava i negri. Gli aveva affittato un appartamento. La bambina era piccola, molto piccola, ma aveva dei grandi occhi che la guardavano fisso, e te guardavano fisso così, a me mi faceva pure un po' d'impressione. Mia cugina diceva: guarda, guarda, la bambina negra scura scura, sembra umana. Era piccola, avrà avuto 1 anno e mezzo la bambina, ci fissava e non diceva niente. Stava lì senza ride e senza piagne, come quando si va a Gerusalemme. Sentiamo la mamma piangere e gridare. Mio nonno corre, dice che la bambina è svenuta. Non mangiava più, era domenica, fuori si sentivano solo le radioline con le partite. Mio nonno corre a casa, prende una cucuma, la porta di sotto, la cucuma col sugo di spuntature, l'odore si espande per tutta quanta la stanza, per i vicoli, per le strade, le baracche, la Tiberina, fino a tutto il cimitero. Un odore da risveglia morti. Gliela mette davanti la bambina dei grandi occhi, quelli che mi facevano un po' impressione. Alza lo sguardo e mette la mano sul sugo della spuntatura di maiale e l'assaggia. I negri erano profughi, venivano dalla Somalia, sfuggivano ai massacri. La bambina non aveva più mangiato da quando erano arrivati qua. E da quel giorno tutte le domeniche mio nonno preparava nel biberon della bambina il sugo con le spuntature di maiale, fino a quando la famiglia dei negri scuri scuri se ne andò via. Mio nonno è morto a 92 anni, fumava 3 pacchetti di sigaretta al giorno. Mia nonna è morta di enfisema polmonare, non aveva mai fumato una sigaretta. Mio nonno è morto bestemmiando, aprendosi tutte le porte dei cancelli del paradiso.